molto di più di quello che tu mi dai. Dicevi non cambi mai, resti quello che sei, che sei, che sei, che se sapessi di più, allora io smetterei di affannarmi così per tutto quello che sei, che sei, che sei, tanto tu sei di un altro pianeta e non vivi come me, parli agli alberi e al vento, non c'è niente che sia impossibile, vedi tutto attraverso, senti il mondo che gira intorno a te, mentre io muoio dentro, l'universo non appartiene a me. E cerco sempre di più di quel che trovo e lo sai, accontentarmi non è possibile se tu sei, tu sei, tu sei, se tu sei molto di più di quello che agli altri dai. Da vedere oramai resta poco se sei, se sei, se sei, se tanto tu sei di un altro pianeta e non vivi come me, parli agli alberi e al vento, non c'è niente che sia impossibile, vedi tutto attraverso, senti il mondo che gira intorno a te, mentre io muoio dentro, l'universo non appartiene a me. Credo di sapere come è fatto l'uomo, che ti siede proprio accanto, mentre tu li urli contro il pianeta da cui cadi, non ha poi tanto senso, se tu non sai ascoltare per un solo momento il diverso che ho da dire, il diverso che ho da fare, il diverso che sono io da te, che sei fin troppo uguale al pianeta che ti porti dietro e non vedi proprio altro. A me resta il silenzio di quel che penso. Perché tu sei di un altro.